Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ben ritrovati in questa puntata prepasquale dal mondo della scuola. Ritroviamo il neopresidente della FISM Trevigiana, Stefano Grando, ben trovato. Buongiorno a tutti. Dunque, rifacciamo il punto con te a poche settimane da quando ci siamo conosciuti e incontrati per la prima volta, perché ovviamente con il nuovo consiglio, la nuova presidenza, state facendo il giro delle scuole, iniziando a conoscerle direttamente, a farvi conoscere. Chiaramente parliamo di provincia di Treviso, che tocca il territorio di due diocesi, come sappiamo, quella di Treviso principalmente in destra Piave e la diocesi di Vittorio Veneto. So che avete un calendario fittissimo, forse più del governo, un'agenda ricca di appuntamenti. Per quello che avete visto finora, cosa puoi dirci? Beh, guarda, allora adesso il programma è incontrare tutte le 230 scuole circa da qui a fine giugno, a metà giugno, il che vuol dire che due volte a settimana, dividendole per zone, noi il martedì e il giovedì indicativamente le raggruppiamo in circa 10 scuole alla volta e su una sala capiente chiacchieriamo. Chi incontrate, insegnanti? Allora, noi abbiamo esteso l'invito al presidente della scuola e la coordinatrice in primis, dopo una delegazione di insegnanti, una delegazione di genitori, una delegazione del comitato di gestione della scuola. Diciamo che la media di partecipanti per scuola è 5, 6, punte di 8 persone. Mm-hmm. E lo scopo è dialogare, come dicevi tu giustamente, no? Io, nuovo presidente, mi presento, con me vengono i consiglieri della zona interessata, e diciamo chi siamo, cosa vogliamo fare, e loro ci riportano le loro difficoltà, le loro critiche anche costruttive, speriamo sempre, e le perplessità, cosa si aspettano da questa nuova versione di FISM, dei suggerimenti per la parte pedagogica anche sono emersi. Diciamo che è una serata di tre orette circa in cui a ruota libera noi si avvia un dialogo e si cerca di fare una fotografia della situazione della zona. Fotografia che già conoscendo, insomma, sia tu che io conosciamo il territorio, sappiamo che poi la situazione è diversificata, nel senso che molte scuole sono di origine parrocchiale, o gestite dalla parrocchia o gestite come IPAB, quindi anche la forma giuridica è diversa. Ci sono magari casi di scuole comunali o di scuole statali, magari nei comuni più grossi, immagino, piuttosto che in quelli più piccoli. Quindi incontrate l'arcobaleno. Sì, l'invito è esteso a tutti, quindi è esteso anche, principalmente è esteso alle scuole che sono associate al FISM ovviamente, però nulla vieta che si presentino anche scuole non associate al FISM, quindi alle statali per così dire, proprio nell'ottica di avviare un dialogo con tutti, per cui per noi avere un riscontro anche da chi non fa proprio parte della nostra cerchia ristretta è una crescita, un dialogo ancora più costruttivo, per cui avere un riscontro anche di realtà non strettamente legate e non, quindi sotto la nostra ala protettiva è un modo per vederla con un punto di vista diverso. Bisogna che il dialogo siamo in due, però ovviamente noi invitiamo, bisogna che poi che vengano. Certo, ecco. che si sia in due. Per quello che avete visto poco, insomma, in questi giorni, poi c'è anche appunto la Pasqua in mezzo, ma poi ho visto il calendario su Google che mi hai molto fatto impegnativo. Vedere. Molto, molto impegnativo. Esatto, no, non c'è spazio vuoto praticamente, salvo le domeniche, o forse neanche quelle. Cosa ti è parso, insomma, come prima impressione? Magari erano zone che tu non frequentavi abitualmente. Ma allora, la prima che abbiamo visto era la zona di Villorba e tutto il circondario. C'erano 13 scuole, tra nidi e scuole dell'infanzia, e più o meno una settantina di persone, circa più o meno, e abbiamo parlato fino quasi a mezzanotte, dalle 9 a mezzanotte, abbiamo parlato liberamente di tutto. Ci hanno riportato ovviamente in primis il problema economico, perché chi non arriva a fine mese con la scuola il problema è quello principale. Dopo però è cascata anche tutta la parte pedagogica, la parte di gestione quotidiana delle problematiche, spicce proprio. Diciamo che c'è tanta volontà di fare rete, proprio di condividere le difficoltà e di condividere le risorse. E l'idea nostra, l'esempio che diciamo sempre noi, che un pulmino che corre per 10 km o che corre per 12 perché prende dentro un'altra scuola, la spesa si dimezza o comunque si riduce, per cui mettere in comune certi servizi, mettere in dialogo le scuole che molto spesso per motivi storici non hanno tanto un dialogo costruito, diciamo così, può aiutare loro in primis e poi a cascata a nome della FISM, i genitori, le famiglie, tutti a avere un servizio buono con una spesa un po' minore di quello che può essere adesso. Mm. Per cui la rete che ci deve essere tra noi e le scuole deve essere in primis tra le scuole stesse, se no non ha senso dialogare. Chiaro, esatto, e soprattutto tra scuole che sono vicine di territorio, anche se magari non di storia e di tradizione, perché poi qui i campanili. Tra poco arriviamo ai campanili e alla nuova struttura che almeno la diocesi di Treviso si sta dando in questi anni. Un cenno alla questione finanziaria per legarci a quello che dicevamo qualche settimana fa, una proposta di legge che è ancora in lavorazione, credo. Sì, noi circa 3 settimane fa abbiamo avuto un'indicazione da parte della Regione Veneto di promuovere o di appoggiare comunque una proposta di legge che partisse per la Regione Veneto. Cioè, la legge attuale, la 62 del 2000, che è la legge sulle parità, per mille motivi viene bistrattata, quindi quando si parla di legge 2000 si ferma sul pubblico privato e lì si crea un dialogo senza fine. Un non dialogo senza fine, anzi. Per cui ci hanno detto chiaro e tondo che l'unica possibile soluzione può essere appunto di creare una legge nuova che completi quella legge lì. La legge del 2000 è fatta bene, è strutturata bene, ha un unico difetto che non parla della parte economica. Cioè non dice quanti soldi devono avere le scuole paritarie che hanno tot bambini. Quindi creare una legge nuova che completi questa e sviluppi la parte economica della parità è il nostro scopo. Ovviamente noi non siamo dei giuristi, non siamo dei legislatori, ovviamente, però possiamo dire la nostra. Allora, l'idea era che le 7 FISM del Veneto, una per provincia, dialogando, quindi creando rete fra di loro e con chi ci sta per mille motivi trasversalmente aiutando nei confronti del governo, creino, appoggino, rendono più completa, mettila come vuoi, questa proposta di legge e la presentino poi al governo in corsa, sperando che non cambi, ecco. Per cui c'è una proposta di legge in questo caso dell'onorevole Rubinato e della sua squadra, con cui noi stiamo dialogando e stiamo cercando di dare il nostro apporto sulla base dell'esperienza quotidiana di FISM, ecco. Certo, va bene, ne sapremo di più senza entrare troppo in dettagli nelle prossime settimane. Prima pausa e tra poco ancora insieme. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina. È come un ateo praticante seduto in chiesa la domenica, si mette apposta un po' in disparte per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, tiene le mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera, si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla ed è rimasta una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldiquà, siccome Calvo usa il turbante e quando è freddo anche la coppola. Lo scrutatore non votante con un sapone che non scivola si fa la doccia 10 volte e ha le formiche sulla tavola. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, lo fa svenire un po' di sangue, ma poi è per la sedia elettrica. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ben ritrovati, puntata con il mondo della scuola insieme a Stefano Grando, presidente della FISM di Treviso, che ha iniziato da poche settimane la sua attività dopo l'elezione. Parlavamo poco fa del giro che state facendo, iniziando appunto nelle scuole, per gruppi di scuole, diciamo per area ampia, anche oltre il comune, con il territorio del comune, a meno per la diocesi di Treviso, corrisponde la realtà delle nuove collaborazioni pastorali, cioè questo è un po' il criterio che è stato dato, che anche la struttura ecclesiale in qualche modo corrisponda a quella amministrativa, ovviamente poi con tutta la sua autonomia, la storia, la gestione di 2, 3, un parroco a seconda di qual è la situazione. Questa è un po' anche l'indicazione che avete ricevuto dal Vescovo di Treviso. Sì, io mi sono incontrato con il vicario circa 2 settimane fa, poco più. Abbiamo avviato un dialogo di conoscenza, perché io non lo conoscevo personalmente, quindi abbiamo avviato un dialogo e gli ho riportato un po' quelle che sono le nostre intenzioni di squadra FISM, e abbiamo condivise. La richiesta che lui mi fa, appunto per conto del Vescovo, è di cominciare a pensare alle scuole in collaborazione come fanno già per le parrocchie, quindi con le collaborazioni pastorali, ossia dove le parrocchie collaborano e avviano dei dialoghi di la rete fra parrocchie, le stesse scuole cominciano a vederla così, nel senso condividere la mensa, condividere certi servizi, condividere magari anche le coordinatrici. Adesso sono tutti discorsi che vengono fatti adesso e vanno una realizzazione nel tempo, ovviamente, però cominciare adesso a avviare un dialogo tra scuole e parrocchie vicine, di cui i parroci già hanno un cammino avviato assieme, può essere una soluzione anche per ottimizzare i costi e ridurre le spese, che è inevitabile in questo periodo. Parroco che spesso è il presidente della scuola. Sì, è il gestore. Sì. È il gestore, esatto, formalmente anche sostanzialmente. Mm-hmm. Dicevamo, FISM Treviso vuol dire anche Diocesi di Vittorio Veneto per la sponda sinistra del Piave e da quella parte? Beh, lì, santo ieri era Vescovo di Vittorio Veneto, fatalità, e lì la suddivisione delle zone di FISM già rispecchia maggiormente la suddivisione, la stessa idea che il Vescovo ha di collaborazioni pastorali, per cui è un po' più facile forse che le scuole della stessa zona siano anche le stesse parrocchie delle zone di collaborazione. E parlando appunto col Vescovo, gli ha dato la nostra massima disponibilità e lui mi ha dato la sua, perché questo sia poi fattibile anche nel quotidiano. E la nostra provincia prende anche dentro 2 diocesi di Padova e di Prata Pordenone, misura minore, cioè sì, certo. 5-6 scuole una e 2-3 scuole l'altra. E lì ci andrò con calma a parlare con i vescovi, perché non sono ancora passato. Chiaro, poi sono situazioni con tutto rispetto, ma insomma un po' più marginali come storia e come posizione, ma anche il frutto della suddivisione del territorio. Parlavamo di problemi finanziari, ci sono purtroppo brutte notizie che arrivano, mi pare di capire, per 2 scuole che sicuramente terminano la loro esperienza. Sì, allora da quando sono presidente io 4 scuole hanno alzato un po' la mano chiedendo aiuto, principalmente 4, poi ce n'è abbastanza Di queste quattro, due avevano già avviato nei mesi scorsi un po' la procedura, l'iter per cui si segnala alla regione la chiusura e la regione la approva, per cui lì diciamo che non c'è poco da... Ce ne sono altre due che probabilmente riusciremo, una anzi sicuramente abbiamo concluso un accordo anche a livello sindacale, per cui le maestre con un sacrificio non indifferente, ma tutto il corpo docente, il corpo dipendente ha accettato la riduzione di orario e di stipendio, quindi, e si dovrebbe riuscire a far fronte a questo periodo di crisi e quindi traghettarsi verso futuri migliori. Un'altra scuola, lo stesso discorso, forse siamo ancora un passo più indietro, nel senso che siamo un po' prima e stiamo avviando adesso il dialogo per ridurre i costi, per ridurre le spese, e lì c'è poi da valutare un po' tutto tondo, perché è una zona un po' particolare con interessi anche da parte del comune, quindi insomma, bisogna fare un passo alla volta, ecco. Le vicende insomma sono spesso ingarbugliate localmente più che a livello centrale. I bambini, cioè chiude la scuola, i bambini dove vanno? Bella domanda. Allora, se è un po' il problema delle paritarie, nel senso, nel Veneto sappiamo che il 70% dell'offerta scolastica a questa età viene data dalle scuole paritarie e il 30% dalle statali. Se anche una delle paritarie dovesse chiudere, va a gravare ovviamente sulle altre paritarie, ma anche sulle statali, che non hanno assolutamente posto per far fronte alla richiesta. Per cui o il numero di bambini che rimane a casa si distribuisce per le altre scuole del circondario, oppure non c'è un posto dove possono andare, e questo vuol dire che comunque, mal che vada, la famiglia deve sobbarcarsi chilometri di macchina, spese di babysitter se hanno la possibilità di farlo, o trovare delle collaborazioni, asili privati o che costano ancora di più, ovviamente, per cui la situazione di chi rimane quelli a casa veramente privati, sì, poi privati qui sulla terminologia per non pubblici, diciamo, ecco. Sì. E, quindi ulteriore aggravio in situazione economica già difficile, però poi anche l'aspetto formativo, anzi mettiamo prima l'aspetto formativo. Chiaro che la scuola, che sia statale o paritaria, quindi la scuola pubblica, rispecchia un programma che viene emanato dal Ministero, per cui le indicazioni che vengono rilasciate annualmente dal Ministero vengono prese dalla scuola, che sia appunto statale o paritaria, e vengono poi sviluppate e fanno parte del programma formativo. Nel privato, nel senso di privato, poi sta al singolo gestore della scuola far accettare o meno e sviluppare le indicazioni. Essendo privato non ha nessun vincolo. E non ha nemmeno finanziamenti. Esatto, assolutamente. Ha il finanziamento della famiglia che paga la retta. Certo, quello in toto. Esatto. A proposito di rette, di gestione economica, tra poco affrontiamo anche questo spinoso problema. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, parlando di scuole per l'infanzia, con un cenno anche ai nidi, che sono una realtà significativa e importante, con Stefano Grando, presidente della FISM Trevigiana. Il doloroso e faticoso tema della gestione finanziaria, che spesso tocca i parroci con validi collaboratori, lì dove riescono a trovarli e ad averli, benvengano. Situazione che vede i bilanci perennemente in rosso e poi in qualche modo si arriva al pareggio attingendo però ai soldi della parrocchia. Sì, questo è un po' un uso che nel tempo si è consolidato e diciamo purché che, si vada avanti. Purché si vada avanti, il parroco di turno, che è spesso anche il gestore della scuola, sposta quei, se va bene, 7-8 mila euro, se va male anche 20-30 mila euro da una cassa. Allora, se da una parte questo ovviamente ha un suo perché, può essere storicamente giusto, dall'altra parte, come dicono i vescovi, come ci hanno chiesto anche i vescovi, è vero che c'è una legge del 2000 che dice che le nostre scuole sono pubbliche e in quanto pubbliche sono dello Stato. Allora, è vero che il muro e la parte fisica della scuola è privata, nel senso che è della parrocchia o è del gestore della scuola, però l'insegnamento che si dà fa parte dell'insegnamento pubblico e deve essere sovvenzionato da fondi pubblici. Quindi sotto questo punto di vista non è corretto che la parrocchia di turno debba compensare delle carenze dovute a una gestione ottimale, ma che di partenza parte con dei disagi perché non viene valorizzata, non viene finanziata adeguatamente da parte di chi deve finanziarla adeguatamente, quindi il governo in primis. Che non ci siano, che stiano arrivando adesso i soldi dell'ultima rata del 2013, da una parte rispecchia quello che in regione ci hanno detto sulle tempistiche e ne diamo atto, ne diamo merito. Dall'altra è grave che a metà aprile arrivino i soldi della gestione dell'anno precedente, vuol dire che i parroci hanno dovuto da gennaio a aprile coprire, far fronte con dei finanziamenti privati, con dei mutui, con dei chissà cosa in banca per poter far fronte agli stipendi, alle tasse, alle bollette, a tutto quello che c'è da gennaio in poi, quindi dal periodo in cui era scoperti. Chiaro, perché l'attività va avanti e non basta in questo la pur meritoria opera di volontariato dei gruppi, sì, dei comitati genitori che magari gestiscono la mensa, fanno le pulizie, qualcosa fanno risparmiare. So che ci sono anche esperienze virtuose in questo senso, però appunto, però sono sempre gocce, perché di fatto che noi la vendita dei dolci la settimana scorsa, impiegando circa 30-35 mamme e papà per tutta una settimana, abbiamo raccolto, mi sembra, 1.600 euro circa, che da una parte è una bellissima somma, dall'altra 1.600 euro sono una somma che riesce a destinare a un progetto puntuale, insomma, lo scivolo piuttosto che la tettoia in giardino, piuttosto che la sistemazione di qualche giocattolo. Chiaro che non va a sanare assolutamente il bilancio. E se consideriamo che comunque adesso arriveranno circa 15-20 mila euro di contributo della regione, il comune li ha già dati, le rette vengono pagate a volte anche alla fine dell'anno perché le famiglie sentono la crisi e chiedono spesso di direzionare il pagamento o di farlo in un'unica sede a metà, a fine anno. Sono tutti aspetti che la scuola deve far fronte. Lo stipendio va pagato mensilmente alle maestre, non è pensabile. La bolletta, anche. La bolletta anche, le tasse, figuriamoci se non le paghi giuste e viene fuori di tutto di più. Per cui il parroco che mi dice io non ho fatto questo cammino di formazione professionale, non l'ho fatto, ma io sono un parroco che ha fatto il seminario, mi trovo a dover gestire dipendenti e una struttura, quindi con tutta la parte finanziaria e economica, mi sento in imbarazzo a dover far fronte anche a tutti questi aspetti di cui appunto non ho nessuna formazione. E come dicevi te giustamente, o ho un volontario, qualcuno che mi assiste e mi dà una famosa spalla su cui appoggiarmi da quel punto di vista, o se no vado in sofferenza. Chiaro, senza toccare poi gli eventuali aspetti sindacali, perché parlavamo prima della chiusura, qui chiaramente poi entra in gioco anche una questione personale sul futuro e la sopravvivenza, la gestione della vita delle persone. Facciamo un esempio concreto per far capire quanto, cioè il bilancio di una scuola, quella da cui provieni tu, insomma, quanti bambini, quanti insegnanti, cioè quant'è il bilancio alla fine dell'anno tirando la riga, qual è? Guarda, allora noi abbiamo quattro sezioni, circa 90 bambini e una decina abbondante al nido, Insegnanti? Quattro insegnanti, due educatrici al nido. Tutte a tempo pieno? Tutte a tempo pieno, sì. Siano quasi un full time. Poi abbiamo un direttore e due addetti alla pulizia e una cuoca. La struttura comunque tiene 100 e passa uh-huh. bambini, quindi sono abbastanza importante. E indicativamente, senza andare sullo specifico, se riusciamo ad arrivare ai 20.000 euro di fine anno in rosso, è un bene. Quant'è l'attivo e quant'è il passivo? Se la differenza è meno 20? No, adesso il numero non ce l'ho in testa, però so che più o meno è meno 20 alla fine dell'anno. E è un meno 20 che comunque è giustificato da una gestione che comunque senza questa gestione sarebbe molto più grave. Ecco, diciamo che meno 20 è dovuto al fatto che non puoi alzare la retta più di tanto, non puoi direzionare i pagamenti più di tanto, devi far fronte con investimenti, con azioni in banca che ti comportano delle spese, accantonetti a ferre per gli insegnanti, quindi che quella è una spesa. Sono tutte spese che non puoi non avere e che comunque devi cercare di ottimizzare e di ridurre il passivo, ecco. Dopo, in questa ottica qua, i 1.600 euro della raccolta dei dolci sono importanti, sono quasi un 10%, ecco, con tutte altre iniziative che stiamo cercando di mettere in piedi e di portare avanti. Però non puoi andare a vendere torte tutto l'anno, no. Insomma, ci vorrebbe una soluzione strutturale. Allora, noi intanto ci auguriamo buona Pasqua a Stefano, perché ne abbiamo bisogno, sì. Di una Pasqua vera, e ci ritroveremo magari prima di giugno, della fine di questa stagione, per fare un po' il punto della situazione. Grazie, certo, buona grazie Pasqua. Altrettanto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.